Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 11 maggio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti che ci ascoltate tra la città e il carcere a Liberi Dentro ed Uradio, ora in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Do il buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me in redazione. Buongiorno. Buongiorno Caterina e ben ritrovati. Allora, oggi vi faccio un po' redattore sociale con notizie che vengono appunto dall'Italia. Leggo appunto a firma di Damiano Aliprandi il dubbio, liberazione anticipata dai detenuti di Torino e Oristano, altro appello a Cartabia. Perché questo è l'appello di nuovo giunto alla ministra Cartabia dopo l'appello delle detenute del carcere di Torino. E questa volta i detenuti della sezione maschile e anche i detenuti della sezione maschile del carcere di Oristano in Sardegna chiedono che la liberazione anticipata venga estesa a 75 giorni a tutta la popolazione detenuta e che abbia effetto retroattivo al 2015. Scrivono: chiediamo che si applichi l'ampliamento della liberazione anticipata estesa a tutta la popolazione detenuta, che tale provvedimento abbia effetto retroattivo per l'appunto 2015, anno in cui venne sospesa, in modo tale da avere un risultato concreto sul numero di ristretti, perché lo ricordiamo, purtroppo è vero, la pandemia ha fatto sì che certo le carceri abbiano usato in qualche modo le misure cautelari per la domiciliazione, ma il sovraffollamento è ancora un dato notevole. E quindi si sono aggiunti queste richieste anche dalla sezione maschile del carcere sempre di Torino e anche di Massama in Sardegna, due appelli che l'associazione Yaraya Onlus ha ricevuto e ha voluto inoltrare al DAP, al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Nazionale, e al Ministero della Giustizia, quindi alla nuova ministra Marta Cartabia. E una cosa importante sempre che sottolineo da questo messaggio è questo: loro scrivono: proviamo ad arrivare lì fuori per rompere il muro di silenzio che si sta alzando intorno a tutte le prigioni d'Italia. Dopo le rivolte, le proteste pacifiche, gli appelli passati in sordina, scritti sia da noi reclusi che da fuori, noi non ci rassegniamo a questo limbo. Non vince l'impotenza che dilaga tra queste mura, non accettiamo di rimanere in silenzio di fronte a questa doppia pena a cui tutti noi siamo stati condannati. Perché doppia pena? Perché naturalmente, oltre alla pena giusta, insomma, per il reato commesso, c'è la pena della pandemia che infligge la distanza, il distanziamento per oltre un anno e tutte le limitazioni che questo ha comportato. Infatti, Caterina, stavo pensando che è un appello che arriva in un momento molto particolare, che è quello della pandemia, che appesantisce ancora di più la situazione delle persone detenute nelle carceri e che denuncia anche un po' questa realtà alienante del carcere, che immagino sia diventata ancora più pesante. È proprio così, Antonella. Infatti, per comprendere meglio questa realtà, le detenute e i detenuti stessi di Torino hanno fatto un calcolo. 6 ore per 12 mesi uguale 72 ore in totale, che questo rappresenta quanto sia alienante la carcerazione. 72 ore pari a 3 giorni in un anno è il tempo che viene autorizzato per i colloqui visivi, per i detenuti al 4 bis o al 41 bis ancora meno, tempo per coltivare affetti e ancora 45 giorni all'anno di permesso premio, beneficio che viene raggiunto soltanto magari dopo anni grazie alla buona condotta. Sono dati che fanno un po' spavento, che ci fanno anche capire la preziosità del tempo che abbiamo, e questa denuncia arriva in un momento veramente importante che fa capire anche quanto questo tempo ancora ridotto per gli affetti sociali, insomma l'affettività, sia un aggravio sia sulla pena che sulla sfera psicoemotiva. Sì, tra l'altro è un appello che coinvolge un po' tutto lo stivale, no? Si parte da Torino fino a Oristano, sbaglio. Infatti anche i detenuti del carcere di Massama, di Oristano, hanno scritto alla ministra e la richiesta è la stessa, ovvero la liberazione anticipata speciale. Io spero, la ministra Cartabia è molto attenta a queste tematiche, come anche la tematica della giustizia riparativa, ne parleremo nei prossimi giorni, e quindi auguriamo che ricevano risposta e magari una visita a queste persone detenute, auguriamo che sia veramente così. E affidiamo un brano musicale, una canzone, sempre con Jimi Hendrix, Purple Haze, del 1977, si intitola quindi, tradotto in italiano, Coschia Viola, perché sembra che l'ispirazione per questo testo gli venne durante un sogno nel quale immaginava di camminare sul fondo del mare. Rieccoci, bentornati sulle note di Purple Haze di appunto Jimi Hendrix, sempre su Liberi Dentro ed Uradio. Ora parliamo di cinema e del trionfo di Nomadland, vero Antonella? Sì, oggi parliamo di cinema e di un film bellissimo tratto da un libro altrettanto bello. Allora, prima di tutto chi è la regista? La regista è Chloe Zhao, che vince tre delle categorie più importanti a partire del premio Oscar come miglior film. E la regista è una persona cinese naturalizzata americana che aveva già vinto il Leone d'Oro a Venezia e già premiata ai Golden Globe, che poi ha convinto anche la giuria dell'Academy. Nomadland è tratto da un romanzo, inchiesta, di questa scrittrice che si chiama Jessica Brader, che ha parlato dei nuovi nomadi, i nuovi nomadi americani, preciso, cioè persone che per necessità economica o per volontà di abbandonare le convenzioni sociali vivono spostandosi attraverso gli Stati Uniti, facendo lavori saltuari soprattutto. E per scrivere questo libro Jessica Brader ha vissuto su un camper per un bel po' di tempo, frequentando i nomadi americani e partecipando a molti dei loro raduni e intervistandoli. Sai Antonella, nell'immaginario americano che ho io, non mi aspettavo che esistesse un nomadismo. Questa cosa non me l'aspettavo proprio. E infatti devo dire che è stata la cosa che ha sconcertato un po' tutti, perché noi nel nostro immaginario l'America è un paese che funziona e quasi non ha, diciamo, delle lacune sociali, o meglio ce l'ha, ma non immaginavamo che ci fossero addirittura i nomadi. Invece esiste questa realtà ed è una realtà molto in espansione, dovuta un poco alla situazione economica, perché molte persone a una certa età non hanno una pensione adeguata per potersi pagare l'affitto, per potersi pagare l'assicurazione sanitaria, significa che se stanno male non vanno in ospedale perché non se lo possono permettere e non possono pagare l'affitto di casa. Di conseguenza allestiscono questi van, li noleggiano o li comprano e li aggiustano e possono poi vivere là dentro. Tra l'altro, lavorando qui e là, a seconda della disponibilità del lavoro, ci sono proprio dei siti che trattano questi lavori temporanei e molti vanno da lavorare da Amazon, per esempio. Però tornando al film, c'è anche un'interprete bravissima che è Frances McDormand, che ha vinto per la sua interpretazione di Fern, una sessantenne che durante la Grande Recessione sceglie, come altri americani disperati, di vivere da nomade, alloggiando appunto in un van e facendo lavori saltuari. Chloe Zhao, la regista, con la statuetta in pugno, ha rivolto il suo pensiero a Pechino, il luogo dove è nata, e ha dichiarato che le persone alla nascita sono intrinsecamente buone e che ci crede tuttora, rifacendosi un poco a un gioco che faceva col padre di immaginare delle strofe. Le intenzioni quindi sono buonissime, una bellissima dichiarazione d'amore per la cultura della patria lontana, che purtroppo però non l'ha accolta, anzi non l'hanno neanche ascoltata perché Chloe Zhao è considerata una traditrice dissidente e quindi è rimasta fu tagliata fuori dalla Cina. Tra l'altro è veramente la prima donna asiatica ad aver vinto l'Oscar come miglior regista del miglior film, quindi diciamo era un'occasione senz'altro eccezionale per poter celebrare un artista di fatto cinese. Ha vissuto a Pechino fino a 14 anni, insomma, poi si è trasferita per studiare un po' a Londra, un po' a New York, quindi di fatto è veramente cino-americana, possiamo dire. E questa cerimonia degli Oscar immagino che sia stata molto diversa quest'anno, senza gli sfarzi soliti. Esatto, la cerimonia degli Oscar, che era il momento di massimo splendore del cinema, quest'anno chiaramente è stato ridotto a una presenza, relativa, in una dimensione molto più intima, che però ha avuto il suo bello, francamente, perché anche i vincitori hanno un po' risentito di questo momento di riflessione, che infatti ha premiato il lavoro delle donne e delle persone non bianche. Rispetto agli altri anni, quest'anno ci sono stati 9 attori non bianchi per la categoria degli attori, appunto, e 76 nomination per 70 donne delle diverse categorie. Questo è un dato, secondo me, molto importante. Assolutamente, beh, è molto importante e comunque ci fa sperare che comunque questo settore del cinema riprenda il suo corso, come tante cose che stanno riprendendo pian piano, man mano il vaccino arriva, man mano ritorniamo a una normalità, speriamo più consapevoli. Che brano lanciamo? Che canzone lanciamo? Allora, io rimarrei in Nomadland e lancerei appunto la colonna sonora che è di Ludovico Einaudi e si chiama Oltremare, il brano che presentiamo oggi. rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, siamo con Agnese Drusiani, bentornata Agnese, ciao. Grazie, che piacere. Sempre dell'equipe sanitaria del carcere della Dozza di Bologna e parliamo di un tema delicato e molto attuale, cioè quello dei vaccini, perché mentre dal 26 di aprile scorso si è ricominciato a parlare di aperture, di un ritorno alla normalità in qualche modo, invece dentro, nelle carceri, il ritorno alla normalità e il tema per l'appunto dei vaccini sembrava in qualche modo non arrivare mai. E tanto è vero che risale al 18 di aprile scorso l'appello del nostro garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, Antonio Iagnello, che ha detto alla stampa: fate presto, vaccini, snodo fondamentale per la sicurezza. Quindi io chiedo a te, Agnese, ora com'è la situazione? Diciamo che alla fine sono arrivati. Quindi i vaccini sono arrivati ieri e per tutta la popolazione carceraria, quindi non divisi per età o fragilità o patologie, quindi noi abbiamo la possibilità di vaccinare tutte le persone che sono all'interno del carcere e abbiamo cominciato, oggi è stato il secondo giorno di vaccinazione, andremo avanti fino a che non terminiamo tutta la popolazione. E come siete organizzati, linea di massima? Come fate? Allora, diciamo che in generale in questo momento noi abbiamo diviso ovviamente per sezioni e creando diverse equip vaccinali, come viene fatto sul territorio, quindi composte da medico-infermieri. E le persone entrano una alla volta chiamate, finiscono di compilare l'anamnesi insieme al medico curante e che ovviamente fa le domande di rito che devono essere fatte rispetto ai farmaci, rispetto alle allergie, rispetto al contatto con persone positive, e dopodiché la persona deve attendere 15 minuti sotto la sorveglianza di un'equipe che si occupa delle urgenze, ovviamente, e a quel punto può tornare alla sua giornata. Bene, quindi avete un'organizzazione, dicevi, per sezioni, quindi questo vi consente in qualche modo di completare anche il secondo turno di vaccinazione, no? Assolutamente, nel senso che dopo verrà tenuta tutta la tracciabilità, per cui fra 28 giorni, in base a quando uno è stato vaccinato, verrà fatto il richiamo e la seconda dose. Chiaramente nel caso in cui uno nel frattempo uscisse c'è tutta la rete e viene avvisato tutto il servizio pubblico, per cui la persona poi dopo, una volta uscita, avrà accesso alla seconda dose. Grazie Agnese, per stemperare un attimo lanciamo una canzone. Vivere di Vasco Rossi. È stato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere un po' come perdere tempo, vivere e sorridere, vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo a vivere e sorridere dei guai, così come non hai fatto mai, e poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. Bentornati sulle note di Vivere di Vasco Rossi. Stiamo parlando con Agnese Drusiani dell'Equipe Sanitaria del Carcere del tema dei vaccini, che finalmente, dicevi tu Agnese, sono arrivati al carcere della Dozza. E allora, una domanda che forse è di rito, forse sembra banale, ma non lo è: perché è importante vaccinarsi e quali sono, diciamo, un po' le problematiche anche psicologiche, le paure, le nostre titubanze che minacciano la riuscita del vaccino, che è un bene comune sostanzialmente, mi pare di pensare, perché se io mi vaccino proteggo anche te in qualche modo. Sì, assolutamente. Diciamo che gli aspetti dell'importanza del vaccino sono sicuramente per se stessi, per prevenire principalmente, diciamo, il contagio, ma soprattutto eventuali effetti gravi della malattia. Quindi sicuramente per se stessi e chiaramente anche per proteggere le altre persone. È anche per questa ragione che noi ci teniamo molto a ricordarlo alla popolazione reclusa, che essendo comunque, noi lo sappiamo, tutti a contatto, tutti insieme, è chiaro che se uno si ammala è molto più semplice che gli altri si contagino, e quindi diventa anche un tema di responsabilità collettiva quello di scegliere di vaccinarsi, anche se uno magari non ha paura per se stesso perché si sente giovane e tranquillo, no? Perché anche questo succede. Noi ovviamente ci occupiamo anche di tutta la parte di promozione, di campagna vaccinale, e sentiamo tante ragioni per cui le persone non vogliono accedere alla vaccinazione. Ci stiamo rendendo conto che uno dei temi principali è che questa malattia spaventa troppo poco. So che forse è un po' strano da dire, però evidentemente per chi magari non ha avuto delle storie dirette di persone, non è sufficientemente spaventosa per fidarsi del fatto che un vaccino possa prevenirne degli effetti catastrofici. E quindi uno dice: io sto bene, sono in forma, perché dovrei vaccinarmi? Quasi come se il vaccino fosse una cura e non un atto di prevenzione. Certo, mi interessa molto il fatto che fate prevenzione per il vaccino e quindi comunicazione, andando a parlare nelle sezioni, andate a parlare con i diretti interessati. Quindi sì, Sorgono anche delle domande e voi vi ponete in ascolto dei possibili dubbi, immagino, no? Sì, assolutamente. Questo è un lavoro che facciamo sempre come equipe multiprofessionale, insieme al medico e l'infermiere, che conoscono ovviamente anche in maniera diretta le persone e si possono permettere di rispondere sia in base magari alla situazione clinica della persona singola, che può avere delle paure che derivano, per esempio, non so, da avere una patologia cronica, quando invece il paradosso è che il vaccino sia proprio ancora maggiormente consigliato in questi casi, no? Ad esempio. Oppure la paura di eventuali effetti collaterali, effetti avversi. Si è sentito tantissimo in TV, dai telegiornali, quindi le persone comunque sono molto spaventate anche da qualsiasi cosa possa succedere, vanno rasserenate, tranquillizzate, e soprattutto gli si devono dare gli strumenti per scegliere in maniera più consapevole e in assoluto di fare questa scelta, questo atto di cura. Quindi anche l'informazione cerchiamo di farla in più lingue dove è necessario, fornendo anche comunque del materiale informativo tradotto anche in più lingue e con la disponibilità ad esserci per rispondere a qualsiasi domanda. Quindi Agnese, per chi ci ascolta adesso e ne vuole sapere di più, può direttamente contattarvi come? A noi siamo nelle sezioni tutti i giorni, sempre, dalla mattina alla sera, quindi come gli infermieri e i medici sanno benissimo, basta contattarci vedendoci in ambulatorio in un corridoio e chiederci una mano per capire meglio la situazione. Bene, allora fatelo, facciamolo, meglio una domanda in più, vero, che una titubanza. Assolutamente. Allora lanciamo una canzone, grazie intanto per averci raccontato tutto questo. Una canzone contro la paura, serve, eh? Sì, assolutamente. Grazie Agnese, alla prossima. Grazie. Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti, canzoni per chi non ha voglia da abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare, canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male, perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me. Le mie canzoni poco intelligenti che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti, canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare, sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè, canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare, perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Che ti acchiappano alla gola senza tanti complimenti, canzoni come sberle in faccia. Rieccovi, ci salutiamo ora. Noi ci ridiamo appuntamento tra poco, se ci state seguendo sull'Epida TV, con la rubrica Oggi parliamo di, a cura del Poggeschi, Ne vale la pena, il laboratorio di giornalismo, e mentre alle 17 sempre su Teletricolore, la stessa rubrica. Noi ci rivediamo domani sempre su Lepida, Radio Città Fujiko e Teletricolore, i soliti orari. E vi ricordo di iscriverci se avete delle domande da farci, se avete dei dubbi, dei chiarimenti, dei suggerimenti musicali, redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamulo 2, 40136 Bologna. Grazie ad Antonella Cortese in studio con me e a Pasquale Pitagnello per il montaggio di queste puntate. A domani, buona giornata. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.